Maglioni, mutande, cravatte e giacchetti, son circondato da nazisti a quadretti. Hey! Calzini estremisti, rossi e mappuristi, son circondato da arombi comunisti. Mi sento preso, messo in fila, con un bollino sulla schiena. Chiquita, hai bisogno di un tessuto più profondo, un po' più libero da quello che è intorno. Hai bisogno di un tessuto più profondo, come manganelli ti rifilano lo sconto. Scarpette omicida, Italy made in Cina, son circondato da azienda cocaina. Vestiti firmati, politicizzati, l'alternativa è rimar nudo la mattina. Mi sento preso, messo in fila, scambio la libertà con la divisa. Hai bisogno di un tessuto più profondo, un po' più libero da quello che ho intorno. Hai bisogno di un tessuto più profondo, con manganelli ti rifilano lo sconto. Cambiano i volti, cambiano gli occhi, ma ti rifilano i soliti risvolti. Cambiano idee, ma quale idee? Ormai sei botte sotto un treno di menzogne. Hai bisogno di un tessuto più profondo, un po' più libero da quello che ho intorno. Hai bisogno di un tessuto più profondo, con manganelli ti rifilano lo sconto.